Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Sono desolato e depresso per la deprecabile situazione e il relativo ciarlare. Mi chiedo se sia possibile che un partito del fare non sia stato in grado di organizzarsi su una cavolata conosciuta dalla notte dei tempi come le firme per le liste. Sono d'accordo sul fatto che si tratti di un sistema anacronistico valido solo per le piccole liste e concordo sulla ammissibilità de facto di PDL, PD, DV, Lega, eccetera, in quanto forze politiche esistenti e riconosciute ormai da decenni. Ritengo però che sia osceno il continuo sprezzo per ogni forma di regola che esiste in questo paese. La burocrazia esiste in un mondo così malato solo perché non passa un solo minuto senza che si pensi a come aggirarla e beffarla. È umano ed è nel DNA dell'italiano medio. Probabilmente questo senso di chimera di poter fare un po' come cavolo ci pare è la forza intima e viscerale del Berlusconi pensiero, non perché lui sia la causa di tutti i mali, ma perché lo spirito di emulazione è una delle leve psicologiche più usate da parte del buon Silvio. Personalmente sono ateo ed agnostico anche verso il concetto di democrazia, che è ormai un'utopia con la quale troppe volte ci si riempie la bocca. Questo non toglie che, come cittadino, vorrei avere un minimo di rispetto intellettuale e morale, almeno come contropartita di tutti i sacrifici e sforzi che faccio per portare avanti la mia esistenza di persona normale. Tommaso. Vorrei ricordare a chi dice che la sostanza deve venire prima della regola che le regole a volte tolgono il sonno a padri di famiglia perché hanno superato un certo numero di ore di assenza e vengono licenziati senza appello. Altri si vedono bloccato l'unico automezzo di casa da fermo amministrativo perché non sanno come dimostrare che quel giorno non erano in un determinato posto. E potremmo continuare con centinaia di esempi che colpiscono la vita di tutti ogni giorno. Chiedono scusa anziché inveire e magari l'opposizione, che non c'entra niente, potrebbe anche ammettere che correre in quel modo è francamente dequalificante. Ma si parta dall'ammettere le mancanze, non dal gridare la solita rabbia contro il mondo. Claudio, provincia di Reggio Emilia. Ho seguito il ricorso in ordine all'esclusione di una lista. Chi aveva autenticato le firme non era presente alla loro raccolta, ma i cittadini firmatari hanno tutti confermato davanti ai carabinieri che le firme erano loro e le avevano apposte nella consapevolezza di quello che stavano firmando. Ciò nonostante, gli eletti di quella lista sono decaduti. Le regole relative alla presentazione delle firme non sono complesse, ma in realtà semplici. Sono sicuro però che i TAR ammetteranno le liste. Il problema è che probabilmente le decisioni saranno politiche e potrebbero finire per smantellare nei fatti la normativa, con il logico effetto di ampliare il numero dei ricorsi alle prossime elezioni. L'obiettivo dei radicali è quello di ottenere una riforma in senso blando delle norme, così da riuscire a presentarsi ovunque. Qui, per esempio, non ce l'hanno fatta. Rosario. Siamo alla dittatura del giuridismo, alla legge per la legge e non per l'uomo. In mare c'è la bandiera rossa, un uomo sta affogando ma è vietato tuffarsi per salvarlo. Mauro da Milano. Io dico di alzare i numeri necessari a presentare liste a molte più firme, così i partiti saranno obbligati a chiedere veramente la partecipazione del popolo ai loro programmi. Tommaso. Leggo con sorpresa che il motivo dell'esclusione della lista Formigoni in Lombardia è legata al timbro apposto sull'autenticazione della firma, dato che è stato apposto il timbro del sindaco e non quello del comune. E che differenza c'è? Il sindaco non è forse il legale rappresentante del comune? Il Consiglio di Stato non si è già definitivamente espresso sulla validità di questa specifica procedura in passato? O dobbiamo ritenere irregolari le elezioni che si sono svolte in passato in virtù di quella sentenza? Leggo che causa di nullità è stata anche il non aver scritto il nome del comune per esteso, quando il nome per esteso compare in modo inequivocabile sul timbro comunale e in altre parti, identificando così il firmatario. E l'esito di ciò sarebbe togliere dalla possibilità di esprimere il voto a 10 milioni di italiani, creando un grave vulnus per la democrazia? Stiamo scherzando. Che gioco stanno giocando questi magistrati? Veramente si aspettano che noi elettori accettiamo questa situazione? Dobbiamo aspettarci di tornare agli anni 70, quando era pericoloso uscire in centro a Milano il sabato pomeriggio? Massimo. Caro direttore, sono dottore commercialista, abituato a convivere con le scadenze. Per alcuni dei miei impegni assunti nei confronti dei clienti, qualora trasmettessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate con un solo secondo di ritardo le dichiarazioni per le quali ho assunto l'impegno, sarei tenuto al pagamento di una sanzione fino a 10.000 euro per ogni dichiarazione e le assicuro che molte volte i servizi telefonici e telematici non funzionano correttamente sotto scadenza. Oggi, per il ritardo della presentazione della lista PDL nel Lazio, si invoca una soluzione politica. Non sono d'accordo. Chi sbaglia, paga. E le dico questo pur essendo stato consigliere comunale di Alleanza Nazionale. Arcangelo. Cara Radio 24, giovedì mattina ho avuto occasione di essere testimone di una brillante lezione di democrazia e di diritto erogata dal vostro direttore. È stato scomodato addirittura Cicerone per sostenere che, insomma, escludere dalle elezioni le liste colpevoli di pasticcioneria è più o meno un accanimento burocratico e una limitazione della libertà e della democrazia. È un principio interessante che ci può condurre piacevolmente lontano. La legge è, insomma, un elastico molto rigido dalla parte del singolo e molto morbido ed estensibile dalla parte del potere e delle masse, o presunte tali. Mi chiedo se analoga lievità ci sarebbe stata se le liste escluse fossero state piccole o poco rappresentative, come se anche i diritti di un piccolo gruppo di cittadini, che magari si riconoscono in quelle liste, non meritassero rispetto e considerazione. È successo in passato che altre liste venissero escluse per altrettanta pasticcioneria ed errori formali, ma in quel caso il silenzio è stato assordante. Cicerone è rimasto a dormire il suo sonno eterno. La democrazia non era in pericolo e nessun ministro si è dichiarato pronto ad ogni soluzione. Chi si candida alle elezioni sottopone la sua persona e le sue idee al giudizio dei cittadini. Nel farlo si presenta dando il suo esempio di diligenza, ovvero con il rispetto delle norme e con competenza, dimostrando la propria capacità di affrontare i problemi. I cittadini non sono sudditi e non sono gli unti del Signore che decidono a priori, a volte anche a posteriori, chi è più uguale degli altri. Se il singolo cittadino deve rispettare limiti e scadenze e viene sanzionato quando non lo fa, a maggior ragione spetta ai suoi rappresentanti, senza guardare in faccia nessuno. Visto che abbiamo scomodato Cicerone, ho anche io una bella citazione in proposito. Dura lex, sed lex. Massimo. Caro Massimo, il tema delle liste e soprattutto il dibattito su legalità e democrazia è certamente importante, tale da suscitare contrasti e polemiche. I difensori della legalità, innanzitutto, hanno molte ragioni dalla loro parte per non transigere su regole che, peraltro, erano state in anticipo accettate da tutti. Ma ha qualche ragione anche chi fa notare che costituirebbe una ferita alla democrazia il non permettere, per questioni formali, la possibilità che i cittadini votino per liste in grado di raccogliere piccoli o grandi consensi. E come ha scritto Stefano Folli sul Sole 24 Ore, la democrazia si fonda sulle regole, ma anche su alcuni criteri logici. E non è logico che l'intero centrodestra, con in testa il governatore uscente, sia azzerato in Lombardia e messo nell'impossibilità di partecipare al voto. Questo fa a pugni con il buonsenso. Ed il buonsenso, richiamato da Stefano Folli, non è il concepire la legge come un elastico, magari che si applica inesorabilmente verso i nemici e si interpreta benevolmente verso gli amici. E in questo caso è palese che l'applicazione rigida delle regole contrasta con il diritto dei cittadini di giudicare l'operato di chi ha governato e di scegliere chi dovrà governare. Lei ha ragione, caro Massimo, nel sottolineare che i cittadini non sono sudditi. E proprio per questo la democrazia deve essere sostanziale e non solo formale. Siamo di fronte a una prova di maturità per l'intero sistema politico, che dovrebbe trovare concordemente una soluzione a quello che è un reale problema. Ma date le premesse, non sono sicuro che per risolvere questo pasticcio non se ne faccia uno ancora più grande. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci